fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui in diretta su Resto Radio Convento e abbiamo un bel gruppo di amiche e amici, perché non dimentichiamo anche, nonostante la bionditudine del nostro amico... che lo potrebbe far passare per amica, ma no, perché è biondo e masculo. Quindi poi capiremo anche il suo ruolo all'interno del gruppo, perché è inusuale vedere un ragazzo all'interno del nubilato, ma è molto molto interessante. Festa, direi, a tema cielo e sole, da quanto vedo, perché ho un po' nuvole anche. Quello è, perché abbiamo la nostra sposa in giallo, che state vedendo anche inquadrata nelle nostre webcam, che non ce l'abbia male la signora Fletcher, che sarà un po' ingelosita in questo momento perché le hanno rubato il colore dell'abito, che stia tranquilla, che è tutto a posto. Allora la salutiamo, le diamo il benvenuto, intanto lei manda giustamente baci al pubblico pagante, giusto così, bisogna dare, come dire... Vai tranquilla, prenditi pure il tuo tempo, dar da mangiare ai propri fan, no? Che sono così caldi. Benvenuta. Grazie. Grazie a te. Andiamo avanti così per 25 minuti. Allora, come ti chiami? Alessia. Alessia, vai, avvicinati al microfono che ti sentiamo anche. So qua. Sei qua. Adesso, brava, adesso sì, benissimo. Ha fatto tra l'altro una fatica incredibile ad arrivare lì, adesso potete asciugarle un po' di sudore se volete. Allora, Alessia, da dove vieni? Terrossa. Che si trova dove? Verona. Verona, lo specifica, anche prima ci teneva a dirlo, lei di Terrossa. E cosa festeggi questa sera qui al convento? Addio al nobiliato. A chi? Addio a chi? A me. Ah, a te. Dove vai? E dove vai? Non lo so. Non lo sa, vabbè. Insomma, tu ti dai l'addio, ancora non sai dove andrai. Non esatto. Sa dove andrai. Perfetto. E addio al nobiliato, quindi ti sposi con chi? Sebastiano. E quando? 22 giugno. 22 giugno, quindi ci siamo quasi, un mesetto, poco più di un mesetto, poco più di un mesetto. Ma raccontaci o raccontateci in base a chi l'ha scelto, come mai questo super giallo che ti ha così contraddistinta in questa serata? Devo proprio? Devi, se vuoi. Che il pubblico è qui in tensione, aspetta solo questo. È il colore che odio. Ah, perfetto. Che è per fartela un po' pagare, insomma. Sì, e come mai odi il giallo? Cosa ti ha fatto? No, mi fa cagare. Bene, perfetto. In modo molto elegante francese, no? Infatti, francesismo. E come mai? Ma già da piccola? Non mi piace. Non ti piace? Ma è così acceso, caldo? È brutto. No, come mai? Adesso raccontaci, cioè, nel senso, difendi la tesi di odiare il giallo. No, mi fa schifo, assolutamente no. No, sono d'accordo con te. Schifo è un colore che non esiste. Non esiste, addirittura. No, non dovrebbe esistere. Tra l'altro vieni da Verona, la vostra squadra c'ha le maglie gialle, anche loro. Gialle e blu. Vedi, anche i cugini hanno la maglia gialla. Quindi... E blu. No, i cugini no, se no non sarebbero cugini. Sì. Ma io voglio capire da dove nasce questa tua turba per il giallo. Da sempre? Sì. Cioè da quando sei nata? È brutto. E come mai? Dato, no, perché... non lo so, ascolta, è brutto e basta. È brutto e basta, bene, non c'è una ragione, un motivo vero e proprio. Non ti piace? Come, non lo so, i peperoni o le olive o le cipolle, non ti piacciono, no, punto e basta. No, non mi piace. Punto e basta. Bene. E quindi, nel senso, si coloreranno tutti i capelli per il tuo matrimonio le amiche bionde? Sì. Sì, per forza, perché sennò non possono entrare, anche lui dovrà. Di che Paolo si colora i capelli. Anche Paolo, beh, ma Paolo è già brizzolato, quindi parte comunque bene, non è biondo. Ma intanto il tuo amico come lo vedresti, ad esempio, che lui è super biondo? Moro, vedi, è già un consiglio questo, ma se no non si entra, proprio tema vietato il giallo. Bene, e invece le tue amiche, come mai questo azzurro così, anche in questo caso tutte perché coordinate? Perché il mio colore, dai, l'azzurro preferito, il cielo, sì. E in questo caso meno male, quindi l'azzurro non ti ha fatto niente. No, non ti ha fatto niente, quindi vuoi bene all'azzurro, un po' meno al giallo. Bene. Allora, vuoi, ti va anche di presentarcele le tue amiche, vuoi dirci chi ti accompagna? Dai. Marta, la cugina di mio amoroso Sebastiano. Marta. La Maddalena, cioè Sebastiano si chiama sua cugina, anche lei? No, lei si chiama Maddalena. Ah, ok, no, ok, l'hai presentato come se chiamasse anche lei Sebastiano. Maddalena. Chiara. Ok, no, sono qua in 12, ne hai dette 5. Un attimo, Ah, ok, scusa, è giusto, prendi il tuo tempo. Bene, cioè, okay. Da di là è passato il Valentina, ok. Valentina, sua cugina? Sì, di Luca. Di chi? Ah, sempre di Sebastiano, ok. Sì. Ma quante cugine c'ha? Tante. Bene, bello. Silvia, là in fondo. Sì. La Chiara, che si sposa prima di me. La Silvia, là in fondo. Non l'ho già presentata, la Chiara. Sì? Due Chiara e due Marta. Ah, due Chiara e due Marta, grazie, non le dici tu. L'hai già presentata tutte? No, perché anche salutiamo le amiche fuori. Allora, Federica. Lei. Si sposa Roberta. Prossimo. Roberta, sì. Giada. Questa. Giada ha chiesto suggerimento. Mia sorella Jessica e mia cugina Giulia. Beh, finalmente c'è una cugina anche tu, giustamente. Era sempre, insomma, un po' monotematico. Allora, vuoi dire qualcosa al tuo Sebastiano? L'abbiamo chiamato in causa più volte. I love you. Ehi là, senti. Con questa poliglottismo, questo poliglottismo. Ha studiato lingue. Ha studiato lingue. A Verona anche qui. Anche qui. Lingue, non cinesi. Non cinesi, ma? Ma? Che ne so, devi dirmelo tu, non è che sono il mago Telma e prevedo il futuro. Ho studiato inglese e francese. Inglese e francese, come se fosse, no, ovvio, ma si può scegliere tante cose. Inglese e francese, ma torniamo, tuo testimone di notte dicevi, no? Lui, come mai? Lei. E lei, ok, ma io non voglio sapere la sua presenza perché mi affascina il suo ruolo. Come non l'ho ancora capito? E chi l'ha invitato? Salutati, non so. Si è auto. No. Si è auto invitato, beh, furbo in mezzo a 37 donne. Figurati. Ok, ma è tuo amico? Dove vi siete conosciuti? Sempre al microfono, vuoi dirci? Da una vita. Cioè nemmeno ti ricordi dove vi siete conosciuti, no, ma siete amici. Ma siamo amici da una vita. Ah, ok, siamo ok. Siamo da... Nonostante, ma è sempre stato biondo? Cioè, quindi tu sei andata oltre il tuo odio per il colore, per l'amicizia. Sono rosa. Incredibile, per l'amicizia. Esatto. Mia, sei davvero speciale, Luca. Giusto, sì, Luca? È vero. Mamma mia, cos'ha di così speciale? Dici un po'. Boh, che bella, è tenerissima, vedi? Vedi? Quando non si parla di giallo è tenerissima, è tenerissima. È così, è così. Luca, vuoi dirle qualcosa? No, guarda. Ha già detto tutto. Ok, va bene. Voi ragazze volete salutare la vostra sposa? Ciao, Ale. Oh, bello, vedi, loro sono più concise, più stringate. Scusi, non ho fatto niente. Allora, grazie mille per aver festeggiato con noi. Ti auguriamo una buona serata, una buona fine serata, intanto che fai le boccacce a quelli che ti guardano fuori. E grazie mille, ovviamente, auguri per il tuo matrimonio. A chi fa? Ce l'ha con te? A lei, ce l'ha con te. A lei. Ce l'ha con te, fatto un... Paolo, dai, basta, aspetta. Perfetto. Allora, vai da Paolo, vai a salutare Paolo. Grazie mille ragazze, buona serata e buonanotte.